Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero e non vi dico ancora l'argomento della giornata, anche se i più vicini ai social network, ovvero a Facebook, avranno capito di cosa si parlerà perché lì è scritto già da qualche giorno, ma come sempre voglio ricordarvi l'appuntamento delle 11.30 con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o elettronici, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che come sempre può essere o una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Pugni chiusi, non ho più speranze. La canzone, ecco, che voglio dire, questi tempi non è che fa molto bene ascoltare, però ha un senso assolutamente con il mistero appunto di oggi. Per prenotarvi dovete farlo da subito, il numero verde 800 24 00 24, e si giocherà alle 11.30. L'argomento di oggi sono i nostri amici, e spero che lo siano per voi anche, ovviamente, animali. Ovviamente daremo una preferenza a cani e gatti, perché sono anche quelli più comunemente tenuti in casa, però apriamo una finestra anche agli animali un po' meno consueti, come i furetti, ecco, perché qualcuno il furetto ce l'ha a casa. Io vorrei che voi vi scatenaste, ecco, mi piacerebbe che possa accadere questo oggi, nel bene e nel male, nel senso che è vero, bisogna stare molto attenti ai propri amici animali, e questo è doverosissimo e giusto, però anche il comportamento degli animali, tipo nelle case, deve essere corretto, ecco, perché a volte semplicemente dicendo ma sono animali, così non ci si comporta, cioè si fa in modo che gli animali non si comportino bene e non vengano così redarguiti a dovere. Invece bisognerebbe, no, insegnare anche ai nostri amici a quattro zampe a evitare magari di abbaiare quando non c'è un motivo, perché succede, poi soprattutto quando si vive in condomini dove molte famiglie hanno animali. Però parliamo di questo, ma non soltanto, anche di tutto quello che si sta facendo per gli amici a quattro zampe. Insomma, vorrei conoscere le vostre esperienze, e se avete anche animali particolari vorrei sapere quali e come vi comportate con loro, come anche i vostri vicini magari vi guardano quando avete il furetto in mano, magari il serpente nel terrario. Ecco, vorrei un po' conoscere anche la vostra esperienza. Il numero per i messaggi 349 238 6666, oppure la nostra pagina di Facebook Il riposo del guerriero. E visto che parliamo di animali domestici, cominciamo con i gatti. Sono la gatta sul tetto e rubo il vento per te. Dove sei? È tardi e non lo sai. Ho bisogno di te, ma con chi sei? Il fumo mi consuma, sai, di notte sono gelosa. Me la pagherai. Provo a respirare, devo stare calma, controllare le funzioni biologiche. Yeah. quanto tu. Giorgia in versione gatta, e parleremo ovviamente di cani e gatti perché c'è un'iniziativa che esordirà tra poco, tra 2 ore circa, e non ve la racconterò io ma un direttore. Il riposo del guerriero. Cominciamo la puntata anticipando qualcosa che potrete vedere fra circa 2 ore. Clemente Mimun, buona domenica. Buona domenica direttore, perché oggi alle 12:20 parte una sorta di sperimentazione, perché credo che adesso abbiate pensato a 2 puntate, vero? A 2 momenti di un TG dedicato proprio a cani e gatti. TG Bao e Miau si chiama. Sì, si chiama TG Bao e Miau, ma si occupa di tutti gli animali che frequentano le nostre case, ma non solo, cioè cani, gatti, conigli, furetti, navi, tartarughe, furette, ecco, sì, quant'altro. Ma facciamo 2 puntate pilota, come si dice, semplicemente perché in estate si può sperimentare, ma io non abbiamo dubbi sul fatto che sia un appuntamento che avrà successo, nel senso che l'esigenza di parlare dei nostri piccoli amici c'è a prescindere da chi la farà. Io penso a questa cosa già da molti anni, dal 94 che ci penso, perché ho sempre avuto il pallino dei telegiornali tematici, oltre che di quelli generalisti, sì, per cui ho fatto costume, società, salute, non solo soldi, sì viaggiare, hit parade inteso come cibo e non come dischi, al TG2 e altre rubriche al TG1, e qualcosa abbiamo fatto anche qui al 5. Questo degli animali, tra una cosa e l'altra, non riuscivo mai a fermarmi un secondo a realizzarlo. Ho pensato che siccome non dirigerò telegiornali fino al 2500, ma immagino di fermarmi un attimo prima, vorrei prima di concludere questa esperienza in generale fare anche questo. Facciamolo, questo, certo. Quindi lo faccio, sono sicuro che andrà bene, l'abbiamo fatto con molta cura e con molto amore. Nel senso che è stato un prodotto proprio realizzato con... è uno di quei prodotti a basso costo e ad alto potenziale d'ascolto. Riguarda la metà delle famiglie italiane, perché di animali in casa ce ne sono. Sì, pare che ecco, una famiglia su 3 abbia un animale domestico in casa. Un animale domestico, il business degli animali supera gli 11 miliardi di euro, sì, quindi è una cosa gigantesca. E oltretutto fanno parte delle nostre famiglie ormai in modo integrante, c'è tra i legislatori chi ha pensato più volte di metterli nello stato di famiglia, sulla carta d'identità, insomma sono assolutamente educativi per i più piccoli, perché insegnano amare un animale, accudirlo significa assumere una responsabilità anche nei confronti della natura, o se mi permettete del creato intero, per cui vuol dire portare rispetto anche all'ambiente. Non vedo neanche un elemento negativo in questa storia. Ma infatti gli elementi negativi non ce ne sono proprio, perché comunque... Dico di più, che noi non useremo gli animali per far ridere, perché c'è, che so, il gatto che partecipa al festival di non so che cosa, o semplicemente il cane che va, come va peraltro, soprattutto il bulldog sullo skateboard. Ma parleremo anche dei cani che hanno fatto vincere l'Oscar, ma parliamo degli animali comuni, per cui questa volta si comincia con i beagle di Green Hill, poi ci saranno gli animali spaventati dal terremoto, rimasti soli, che quindi sono adottabili, ma ci stanno anche storie tristi come quella di un delfino che si è lasciato morire perché ha perso in tenera età, diciamo, prima la mamma e poi l'istruttrice, e poi però tante storie anche divertenti con il rapporto che c'è tra, non so, Maurizio Costanzo è sempre stato un amante dei cani, da qualche tempo a questa parte ha un gatto certosino al quale è attaccatissimo e racconta il rapporto con il suo gatto, Feltri il suo amore per i cavalli. Siamo andati da Caspar Capparoni, che era il protagonista di Rex, che vive a due passi da Roma con 9 pastori svizzeri, che sono dei cagnoni giganteschi, bianchi come il latte, sì, che lui educa e che lo seguono a bacchetta. Io stesso ho un border collie che è stato addestrato in gran parte da Massimo Pella, che è uno dei migliori addestratori del mondo, con il quale il guinzaglio non è necessario, basta parlargli e lui fa quello che... Cioè lui non combina guai, non ha mai combinato un guaio, è più facile che i guai li combini io. Sì. Tra l'altro Massimo Perra sarà uno dei nostri ospiti anche più tardi nel corso della puntata di oggi. Ci sarà anche un aspetto educativo, immagino, in uno dei momenti di questo TG, visto che dura una ventina di minuti. Quanto dura? No, attenzione, non dura 20 minuti, ma dura 30. È dalle 12.20 alle 12.58, okay. Le 4 di pubblicità ne rimangono 34, quindi sono abbastanza. Sì. Tendiamo a parlare di tanti animali, parleremo una non oggi, ma la prossima volta. Sì, nel corso delle puntate. Che ha più visti sul passaporto di un ambasciatore. Sì. O di animali bizzarri, che ne so, tu ormai lo sai che le nostre città sono piene di animali alieni, no? Che arrivano, abbiamo gli scoiattoli nazionali che sono stati soppiantati dagli scoiattoli americani perché sono più forti. O degli uccelli che non avevamo mai visto, che attraversano la strada e non si muovono neanche se arrivano le macchine, no? Molto determinati, ecco, anche questi animali che sono arrivati nelle nostre città, nei nostri paesi, cambiano in qualche modo l'habitat e richiedono di sapersi comportare. Certo, un adattamento sia nostro nei loro confronti, sia loro nei nostri confronti. Ecco, direttore, voi avrete anche un momento, immagino, di servizio in questo TG. Anche perché è tutto di servizio, sai, alla fine. Sì. Sì, certo, c'è l'addestratore che spiega in 3 minuti come si fa a non farsi trascinare. Ma anche semplicemente come viaggiare, no, con un animale, perché... Sì, ma vedi, lì è il problema nostro, è riuscire a fare, il problema di tutti quelli che hanno animali, è quello di riuscire a fare lobbying e fare pressione quindi sulle ferrovie, le compagnie aeree, gli alberghi, eccetera, perché si aprano alla possibilità di portare l'animale con sé, perché non è molto facile, tant'è che ancora ieri hanno fatto, mi pare, a Milano... Sì, infatti ne parleremo, certo. Una manifestazione, sì, in cui praticamente... una sorta di guida Michelin, su, no? Su alberghi, ristoranti e posti e spiagge dove si possono portare gli animali senza problemi. Cioè, io non sono un animalista, diciamo così, sfrenato, sono, sì, per un rapporto equilibrato. Sono sicuro che avere un animale è un bene. Ho visto delle operazioni fantastiche. Ho conosciuto una suora americana che ha fatto un esperimento in America che è stato riprodotto, riproposto anche in Italia, molto bello. Lei praticamente recuperava, evitava che venissero uccisi nei canili i cani abbandonati, facendoli educare da detenuti, che quindi a cui si veniva insegnato un mestiere durante la prigionia, durante la galera, sì, diciamo. E questi cani erano educati ad aiutare le persone diversamente abili, gli handicappati, chiamiamoli come vogliamo, sono le persone che hanno qualche difficoltà motoria. Sì, una sorta di pet therapy, quindi. Sì, ma è una pet therapy, per cui con un colpo solo questa suora aiutava tre diverse categorie. Il cane, perché gli salvava la vita. I detenuti. Il detenuto, perché gli insegnava un lavoro. E che aveva bisogno di sostegno. Ecco, ma questa roba qua è stata fatta negli Stati Uniti con grande successo e mi pare un esperimento positivo che potrebbe essere fatto anche in Italia. Assolutamente, naturalmente, sì. È durato poco perché si sono trovate le solite ragioni, non ci sono i quattrini, motivi di sicurezza. Allora speriamo invece che duri tanto questo TG che voi oggi guarda, comincerete a sperimentare. Un sassolino nello stand. Facciamolo. Sono sicuro che funziona, se poi gli piace continuiamo a farlo, altrimenti qualcun altro raccoglierà l'eredità e la porterà avanti. E qualcosa succederà. Tenete conto che io non mi ispiro a nessuno dei contemporanei, ma soltanto un vecchio maestro antico di quando ero bambino, che si chiamava Angelo Lombardi, sì, l'amico degli animali, che era una trasmissione della RAI, che all'epoca aveva un solo canale in bianco e nero, e che ha insegnato questo signore un po' a tutti a conoscere macachi, armadigli e quant'altro. Da ragazzini all'epoca eravamo affascinati da questo signore, mi sono sempre detto perché non ce ne potesse essere un altro nel terzo millennio. E quindi almeno qualcuno deve cominciare sicuramente. Esatto. Grazie, grazie direttore, grazie, in bocca al lupo. Visto che siamo, anche se non è tanto bello questo, non so, un modo di dire, ma non mi piace, l'ho detto perché si dice ma non mi piace. Grazie a Clemente Milun. Quindi voglio ricordarvi oggi alle 12:20 questo primo telegiornale interamente dedicato agli animali. E andiamo avanti, parliamo di animali perché c'è Daniele Chiefa al telefono. Daniele, buona giornata. Buongiorno a tutti. Ecco, Daniele è un musicista in realtà, perché penso che tu ti sia diplomato al conservatorio, vero Daniele? Poi suoni, sì. Però a un certo punto cosa è successo nella tua vita? A un certo punto è nato, oltre alla chitarra, ha fatto parte della tua vita qualcos'altro, anzi qualcun altro, non qualcosa. Allora, praticamente i miei genitori avevano trovato abbandonato in provincia di Taranto un Sidoria Naschi, sì. Io che ero a Bologna, e mi hanno chiesto se ero interessato ad accudirlo, questo animale, sì. Esatto. E inizialmente quello che la maggior parte delle persone pensano, ho pensato, ma cosa ci farà mai un husky in un clima non adatto, pensando che sì, quello che pensano quella è la priorità. Tutti. Chissà che male gli farà perché non è il suo habitat, invece, esatto, tutto si è trasformato. Tu sei campione italiano di sled dog, giusto? Sì, categoria un cane su terra, quindi sì, corsa imbragato, sì, con un solo cane, con il mio cane. Ecco, quindi tu dici, a un certo punto il cane in realtà stava benissimo con te e hai fatto fare anche quello che... Ma sì, perché la cosa più importante per un cane è l'appartenere in un contesto sociale, il clima è soltanto uno degli ultimi aspetti. Gli ultimi aspetti, certo. Ecco. Sì, poi tutto è partito ovviamente senza alcuna ambizione e pretesa. Cioè il mio unico intento era quello di instaurare un rapporto con un animale. Lui mi piaceva tanto correre e quindi abbiamo messo... Sì. Sul tavolo le nostre qualità, le nostre caratteristiche, e allora ho cominciato a correre con lui perché come stimolo a venirci incontro. Tu hai cominciato a correre ovviamente dietro di lui, però alla fine, perché immagino che lui abbia più resistenza, non lo so, magari no, però. Allora, voi sentite degli uccellini intanto, perché in questo momento Daniele credo che sia al Parco Sempione a Milano, perché alle... certo, perché alle 14, non so, ancora c'è alle 16 c'è la partenza, vero? Sì, però gli dati è aperto molto prima. Ah, ecco, perché le 13 c'è una gara, una corsa, chiamiamola così, una maratona con 500 cani, si chiama Advantix Running, e ci sarà poi un vincitore, immagino, poi alla fine della giornata. Pronto? niente, è andata via completamente la linea. Ci sarà un vincitore sicuramente da fine della giornata, quindi se volete andare, così siete a Milano e volete andare ad assistere a questa gara di cani che corrono insieme ai loro padroni, ce ne sono più di 500 che si sfideranno, ma più che altro insomma che si appassioneranno alla giornata, perché è una sfida, un po' per modo di dire, è un modo sicuramente per avvicinarsi ai propri amici a quattro zampe e stare sicuramente all'aria aperta e immancabilmente imparare anche qualcosa da chi il cane ce l'ha da tempo e chi invece magari l'ha appena preso, si trova di fronte a una situazione nuova e vuole sapere come affrontare, un po' come quando nasce un bambino, no? Che ci si chiede a chi già ne ha svezzato uno come ci si debba comportare. Intanto sono arrivando moltissimi messaggi con qualche richiesta, con qualche domanda, con qualche consiglio. Voi continuate a farlo, perché nel corso della trasmissione avremo tanti ospiti che potranno darvi una mano ad avere la risposta giusta. Il numero per i messaggi 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Mi auguro che oltre a tutti i buoni consigli non ci si dimentichi ogni volta di ricordare che i marciapiedi e le aiuole sono di tutti. Questo è uno dei messaggi. E ancora, buongiorno, un aspetto diseducativo secondo me del rapporto che abbiamo con gli animali è la sostituzione con essi dei figli, difficile da ammettere ma atroce. E poi ancora, insomma, chi si lamenta perché qualcuno asserisce che i padroni dei cani spesso diano il peggio di loro quando si parla della loro bestiola, in confronto i genitori con i figli sono ragionevoli. Questo lo scrive Roberto, perché ci sono anche degli altri aspetti da considerare, noi cercheremo di considerare anche questi. Alessandra Tedesco, ciao. Ciao. Buona giornata. Ciao a tutti. La nostra Alessandra Tedesco così è portavoce di molti, credo, ecco, perché vive anche lei un'esperienza a contatto con i cani, ma non suoi. Sì, io sono portavoce dei diritti degli umani contemporaneamente a quelli dei cani, nel senso che sopra casa mia abita una signora che ha ben 5 cani, di quelli piccolini. Avete presente quelli che abbaiano in quel modo stridulo? Ecco, uno di questi 5 cani abbaia sempre, sempre, sempre quando non c'è la padrona, che ovviamente esce fuori per accompagnare la bambina a scuola, va a lavorare, esce, fa shopping, va a fare la spesa, eccetera. E ci sono dei momenti che è veramente esasperante. Io le ho parlato naturalmente dicendo: guarda, cerchiamo di fare qualcosa, vai dal veterinario, insomma, anche perché questo cane soffre, cioè questo cane abbaia perché soffre la solitudine, non vuole stare senza la padrona, cioè alla fine amo più io i cani che non lei. E dice che le ha dato delle gocce omeopatiche ma non hanno avuto alcun esito, risultato. Ecco, certo. E invece devi prendere tu le gocce a questo punto, immagino. Sì, ma mi devo prendere proprio il Valium per dormire, nel senso che questi cani iniziano ad abbaiare dalla mattina alle 8:30 quando vado ad accompagnare la bambina a scuola, fino magari la sera se lei esce, mezzanotte, mezzanotte e mezza. Il sabato e la domenica è impossibile mettersi a leggere, per esempio. Io devo tenere la televisione accesa perché nel silenzio si sente questo abbaiare stridulo che è veramente fastidioso. Ma io ricordo una nostra collega, eravamo in albergo al mare, mi ricordo perfettamente, per una esterna e in un'altra radio, e lei ha due cani di quelli piccoli, taglia piccola, e li lasciava tutto il giorno sul balcone e immancabilmente abbaiavano tutto il giorno, e le persone dell'albergo si sono lamentate e il direttore gentilmente ha detto: guardi signora, i suoi cani abbaiano in continuazione e si stanno lamentando le persone, gli ospiti dell'albergo, e la mia collega ha risposto dicendo: ma come sono come i bambini piangono, invece i miei cani abbaiano. Questa è stata la risposta e nulla è cambiato. Adesso vedremo che cosa si possa fare. Intanto voglio dire che per regolamento i cani si possono tranquillamente tenere in casa, anche se il regolamento condominiale dovesse dire di no, perché da alcune sentenze della Cassazione si evince che i cani comunque è giusto tenerli in appartamento con sé, a meno che non sia scritto proprio sul contratto che non si possano tenere, altrimenti è giusto tenerli. Quindi anche un contratto, un regolamento condominiale non basterebbe, però noi non vogliamo che i cani non si abbiano, ma vogliamo che i cani in qualche modo vengano, se possibile, educati, insomma, al rispetto anche delle persone, come dicevi tu, Alessandra. Vediamo. Posso dire una cosa? Come Stefano? No, certo. Alla fine la signora può anche insonorizzare una stanza, non capisco perché la devo insonorizzare io per poter stare tranquilla durante la giornata, durante la serata. Se poverino questo cane ha questo problema, può insonorizzare la stanza, siamo tutti più felici. Ecco, io credo questo, no? Se fosse un bambino a piangere tutto il giorno, noi ce ne prenderemmo cura e cercheremo di capire il perché di questo pianto continuo, no? Ecco, quindi immagino che sia necessario avere lo stesso atteggiamento anche con il proprio animale. Io però non lo so e vorrei capirlo, ma appunto tu sicuramente sei una delle tante voci con questo problema, Alessandra. Sentiamo se c'è, perché io so che c'è una risposta. Grazie Alessandra Tedesco, ciao, buona domenica. Grazie, ciao a tutti, buona ciao. Giornata. Simone Dalla Valle, grazie, venici in aiuto tu per cortesia. Fai buongiorno qualcosa. A tutti, buongiorno a te. Lo faccio volentieri. Allora, cominciamo, io ho un po' di domande per te, tante stanno arrivando ovviamente via messaggio, cominciamo da qui, io te l'avevo già fatta l'altro questa domanda, ma è necessario risottolineare la risposta. Allora, i cani piccoli tendenzialmente, innanzitutto è vero che abbaiano di più di quelli di mezza taglia o quelli di taglia grande? Ahimè sì, sia per questioni di selezione genetica, perché alcuni di essi, anche se poi sono considerati un po' dei peluche a causa della taglia, spesso erano destinate in qualche modo a creare degli allarmismi o comunque un incipit di guardia che poi sarebbe stato compito di cani ben più grossi, e come dice il proverbio, che anche abbaia poi non morde. E a questo si unisce in realtà spesso e volentieri una gestione sbagliata. Io ho sentito diversi contenuti degli interventi prima di me, c'erano diversi spunti: il cane che diventa bambino, il cane che sostituisce il fidanzato che non c'è più, e il cane che in quanto cane è giustificato a fare qualunque cosa. E questi sono tutti errori che poi creano quello che io dico sempre: quelli che sono dei comportamenti, se reiterati e ignorati dal proprietario, portano a dei problemi comportamentali. Ecco, allora sinceramente io lo dico perché insomma è così, lo vedo spesso, nei confronti dei cani piccoli non c'è l'attenzione, cioè il fatto che abbaino si perdona, come dici tu, perché tanto sono cani piccoli, si esprimono così e quindi li si lascia fare. Esatto. Ma cosa invece possiamo fare come padroni di quei cani? Ecco, come proprietari, cosa, insomma, non voglio dire padroni. Cosa, ma come prima cosa pensare che dentro la testa di, adesso vogliamo fare dei nomi, giusto per far sì, capire, un pincher piuttosto che di un chihuahua o di un Jack Russell, cioè, quanto di dimensioni differenti, è lo stesso medesimo cervello che il pitbull o in un enorme tra i principi. Aspetta che ti sentiamo, Simone, ti sentiamo malissimo, continua a andare a scatti la linea, sì. Non so, pronto, vediamo se riusciamo a ripescarlo. Ecco, aspetta, vediamo, pronto Simone. Meglio così? Sentiamo, prova a parlare e vediamo se riusciamo. Spero sia meglio così. Ok, vai, prova, continua. Okay. Scusami, stavi dicendo perché abbiamo perso il discorso. Il cervello allora, di... ecco, volentieri. Sì. Per quanto possa sembrare una banalità, la prima cosa da fare è quella di pensare che il proprio cane, nonostante sia un pincher, un chihuahua, un Jack Russell, dentro quel cranio ci sia un cervello che è lo stesso identico cervello che troviamo dentro un temibile pitbull o un enorme alano. I principi di apprendimento e quindi gli stimoli che poi portano il cane a comportarsi in un certo modo sono i medesimi, indifferentemente dalla taglia, e quindi anche il cane più piccolo deve essere gestito e considerato come se fosse un cane di 80-90 kg. E spesso io faccio questi esempi. Giusto mercoledì ho fatto una consulenza a domicilio da una giovane coppia che ha adottato un cane da me in canile, sì, e purtroppo questo cane sta cominciando a sviluppare dei piccoli problemi di comportamento dovuti a un'incapacità di dire di no a questo cane. Poverino, viene dal canile, poverino è piccolino, poverino. Si giustifica tutto. E questo piccolo cane di neanche veramente 3 kg è riuscito già a ritagliarsi un suo spazio molto rilevante in casa, per cui il divano, per cui le attenzioni. E io la prima cosa che ho detto è: per un attimo toglietevi dai vostri occhi questo cane, immaginate di avere un cane di 40 kg. Immagino che la prima volta che abbaia sale sul divano quando voi non volete, pensate che questo sia un problema e non una dimostrazione di affetto di voler stare con voi. Ecco, questo è ecco, ma allora, come prima ecco, cosa dobbiamo fare però? Perché poi alla fine all'atto pratico bisogna fare qualcosa. Il cane certo. È piccolo, ci spaventa, fagli qualunque cosa e quindi... Come si fa a educare un... Non vorrei che sembrasse uno spot personale o no, di no, categoria, vabbè, insomma, la tua esperienza la vale. Cosa, la cosa migliore è rivolgersi ad un educatore, cioè purtroppo è questo un altro dei... un luogo comune dei proprietari italiani. Ho sempre avuto cani e quindi so come ci si comporta. Sì. In realtà io ho la patente da circa 20 anni, non so neanche come si è fatto un carburatore. Quindi una cosa è avere un cane al guinzaglio e un'altra cosa è sapere come si educa. Io preferisco parlare di educazione piuttosto che di addestramento. Sì. Come si educa un cane, come si affrontano determinati problemi, perché a volte le soluzioni che funzionavano 20 anni fa, perché non erano stati fatti determinati studi, determinate esperienze da chi si occupa realmente di cani, quei metodi ormai non sono più validi, o purtroppo sembra che risolvino il problema, come ahimè ci fa vedere ancora oggi qualcuno alla televisione molto noto, ma non è con la violenza e non è con l'improvvisazione che si risolvono i problemi. Mi è piaciuto molto una cosa che ha detto la persona che ha parlato prima di me, Alessandra Tedesco. Sì. Ecco, scusatemi, mi stavate collegando. Figurati. Cioè chiedersi perché. Quella è ecco, infatti, io volevo proprio chiederti questo, nel senso che prendendo proprio spunto da lei, me l'ero segnato, no? Cioè, a un certo punto dice, secondo me, diceva Alessandra, il fatto che questi cani continuano ad abbaiare per l'assenza della padrona, vuol dire che si sentono soli, certo, e quindi certo. E stanno soffrendo, è vero? Assolutamente sì. Io quando devo affrontare, visto che chi mi conosce sa che non mi occupo di agility, di obedience, io mi occupo prettamente di recuperi comportamentali, infatti collaboro tantissimo con i canili e le associazioni animaliste. La prima cosa che dico quando devo affrontare un problema comportamentale, visto che dall'altra parte spesso il cliente vuole la soluzione, il placebo con cui curare il male del cane, io gli dico: non posso darvi questa soluzione se prima non andiamo a monte e capiamo perché il tuo cane sta facendo questa cosa. Non basta dire che il cane abbaia, il cane morde o il cane piange, dobbiamo capire perché ha deciso di piangere, di mordere o di abbaiare, e solo capendo la causa riusciremo ad affrontare il problema arrivando ad una soluzione mantenendo sempre il benessere del cane, altrimenti le soluzioni ahimè saranno: il cane abbaia e io gli do lo strattone col guinzaglio, il cane piange e io lo lascio, il cane piange, scusatemi, e io lo lascio piangere, e via dicendo. Invece la prima cosa, io ho una pagina Facebook su cui ricevo tutti i giorni, e un sito internet su cui ricevo tutti i giorni mail, domande. A costo di sembrare antipatico, io non rispondo mai a queste domande, cioè rispondo ma senza mai dare una risposta, perché dico sempre che se una persona mi chiede come faccio a far sì che il mio cane non abbaia per strada, e io gli dico: non ti rispondo, perché se ti rispondessi ti starei prendendo in giro e starei mancando di rispetto a un animale che ancora oggi, dopo 10 anni che faccio questo lavoro, sto studiando. Capite bene che non può essere l'animale più intelligente del mondo, l'amico perfetto dell'uomo, e poi così, talmente, scusate l'espressione, così stupido da avere delle soluzioni ad hoc per ogni comportamento, no? C'è un controsenso in questo atteggiamento che a volte hanno i proprietari. Gli manca la parola, però poi mi basta avere un trucchetto per capire come risolvere il problema. Non è così. È perché lì si tratta sempre, perché lì si tratta comunque, in quel momento lì si sta trattando da cani, ecco, cioè da cani nel senso, ecco, non bello della parola, stavo intendendo quello. Appunto brutto. Sì. Allora io dico sempre a queste persone: se volete considerare il vostro cane come una persona, come un bambino, fatelo, però dovete farlo, dovete avere la forza di farlo 24 ore su 24. E quindi allora ecco il paragone giusto che ha fatto la persona Alessandra Tedesco: se io avessi un bambino che piange tutto il giorno, lo lascio piangere. No, certo. Se avessi un bambino che quando vede un altro bambino prende un bastone e glielo rompe in testa, lo picchio perché così non lo romperà in testa qualcun altro, o mi chiedo qual è il problema che ha suscitato quel comportamento. E questo è fondamentale. A settembre io uscirò in libreria con un libro che ha un titolo che ho scelto, che è Un cane per amico, perché per me i cani sono amici, ma rimangono comunque cani, e quindi vanno trattati da cani e vanno però conosciuti in quanto cani. Questa è la cosa fondamentale. Ecco Simone, resta ancora, perché poi so che lui c'è un impegno, resta ancora in linea, se poi qualche minuto, degli aggiornamenti sul traffico, perché ho ancora qualche domanda per te. Il riposo del guerriero. Ecco, siamo con Simone Della Valle al telefono, istruttore cinofilo, per capire cosa possiamo fare proprio per amore dei nostri amici a quattro zampe, perché di questo si parla. Se li trattiamo come cani che hanno una loro intelligenza, un loro carattere, dobbiamo rispettare proprio questo atteggiamento, ma non facendo finta niente, dicendo ma tanto... giusto Simone, sì, ma tanto no, bisogna fare qualcosa. Io volevo chiederti questo, insomma c'è stata una polemica quest'anno a Capodanno per quanto riguarda i botti, perché sì, molti cani si spaventano, è una polemica che si è sollevata e che ha cominciato a far pensare, no? Magari un aspetto di una cosa che nessuno aveva fino a prima considerato. È anche vero che per esempio adesso d'estate ci avviciniamo ad agosto, malgrado il tempo, però voglio dire arriveremo a l'estate con il sole. Non dirlo a me che lavoro all'aperto. Ecco, infatti immagino. È ecco, una costante variabile quest'anno. E i fuochi, ci saranno i famosi fuochi d'artificio che penso facciano in tutti i paesi d'Italia. Cosa dobbiamo fare? È vero che i cani si spaventano, come possiamo fare qualcosa per predisporli, per aiutarli, per certo, non farli soffrire, certo, se è vero che soffrono? Immagino di sì, non lo so. Guarda, è indubbio che soffrono. I cani hanno un udito che è molto più sviluppato del nostro. Già noi ci tappiamo le orecchie. La percezione sensoriale dei fuochi d'artificio, se già a volte a noi addirittura dopo il primo e il secondo rimaniamo un attimo rintontiti, abbiamo l'eco nelle orecchie, figuratevi per un cane. A questo però c'è da aggiungere un particolare che spesso ci si dimentica, cioè noi sappiamo cosa sta succedendo, sappiamo che quelle esplosioni non sono un pericolo, non sono e siamo una preparati niente, in qualche modo. Cioè... siamo preparati. Pensate per un attimo, quando camminiamo sul marciapiede siamo sovrappensiero e qualcuno dietro di noi sbatte uno sportello, a volte noi sobbalziamo, ci spaventiamo, a volte ieri mi è capitato proprio ieri, ero al supermercato, mi è caduta una scatola e un signore davanti a me ha fatto un salto di un metro. Ora voi pensate cosa può pensare un animale che è inconsapevole di quello che sta succedendo e che magari è già a disagio nel trovarsi al guinzaglio in mezzo a centinaia e migliaia di persone, perché solitamente quando c'è un evento del genere le persone sono già tante, quindi è uno spazio molto affollato che già per il cane è una difficoltà da affrontare. In tutto questo ecco che partono delle esplosioni, delle luci, anche quelle non dimentichiamo, che possono spaventare e terrorizzare. Ecco, infatti cani, ti chiedevo, siccome noi non possiamo spiegargli, tra poco vedrai i fuochi d'artificio perché non ci capirebbe, esatto, ecco. La cosa migliore da fare è non metterli in quella condizione. Ora, torniamo per un attimo alla polemica, perché non è che poi, sì, perché al di là di tutto, adesso io posso capire, fermiamo i botti a Capodanno, posso capirlo, però durante la festa di paese d'agosto sarebbe un pochino più difficile, ma, credo. Allora, ecco, ragionando forse in grande, anche adesso io purtroppo io sono di parte, nel senso che non ho mai sparato i botti neanche quando avevo 15 anni. Va bene, neanche io, ma non è, per me potrebbero scomparire. Però attenzione anche a far sì che i cani non diventino... Io dico sempre che il cane deve essere un piacere per chi vive con lui e per chi lo incrocia. E questo è un impegno che deve avere il proprietario, cioè avere un animale educato, felice, in grado di stare nella società, a meno che questa persona non vive in mezzo ai boschi, in mezzo alla montagna, però deve ricordarsi che potrebbe capitare poi di trovarsi in città. E quindi il cane, banalmente, allargo un attimo il discorso, il cane che tira il guinzaglio può spaventare una persona che arriva sul marciapiede, il cane che scende dalla macchina al parco e corre all'impazzata potrebbe spaventare un bambino. Allora c'è un impegno per far sì che il cane venga vissuto come una risorsa positiva nella società e non come qualcosa che può incutere timore, eccetera. Per far questo bisogna conoscere i cani, bisogna saper educare. Parte di questa educazione è improntata anche a insegnare al cane, che è un animale sociale, quindi un animale che vorrebbe stare con noi, a saper superare i momenti di distacco, di solitudine, no? Senza piangere quando si rimane da soli, perché a volte questa solitudine è necessaria. Io dico sempre che una relazione equilibrata è fatta anche di momenti di distacco, che per quanto pesino, perché magari amiamo una persona e vorremmo sempre stare con lei, sappiamo che anche se non siamo insieme, prima o poi ci ritroveremo. E questa cosa la si può fare anche con i cani, anche loro lo sanno. E quindi in certi momenti è fondamentale dargli la possibilità di rimanere a casa, magari con le tapparelle abbassate, una luce soffusa e, perché no, la televisione o uno stereo acceso, che possono in qualche modo confondere o attutire questi botti strepitosi, perché lo sono davvero. Io ho assistito, ahimè, e purtroppo poi non riesco mai a contenermi perché finisce sempre in una discussione, a delle situazioni in cui vedevo il cane in iperventilazione, in tachicardia, quindi un cane che in quel momento sta soffrendo fisicamente, e il proprietario, oltre a dirmi il cane è mio e faccio quel che voglio, come se fosse un oggetto, invece stiamo parlando di un essere vivente, la risposta era: ma lui sta con me, cosa devo fare, lasciarlo a casa da solo? sì, perché cosa c'è di male? Allora lì, secondo me, viene fuori l'egoismo umano, l'egoismo di non volersi separare dal cane, l'egoismo di non voler magari investire dei soldi per fare un percorso di educazione, per dare al cane gli strumenti per vivere con noi in qualunque momento della nostra vita, anche quando non può essere con noi, e purtroppo quella non è una dimostrazione d'affetto. Una delle frasi che io cerco di diffondere il più possibile, visto che si parla spesso di amore quando si parla di animali in generale, io in maniera un po' polemica dico: ma come si fa a dire di amare qualcuno che non si conosce? Allora è l'amore dei teenager, quelli di, che si appendono il poster di Tom Cruise. Ma spesso, guarda, adesso entriamo poi in una discussione, però a volte veramente è così, quindi bisogna capire, bisogna invece capire che avere un animale significa veramente un grande impegno, sicuramente. Sì, ecco. O per citare Spider-Man, come dico, avere un animale comporta grandi responsabilità. È proprio così. Stanno arrivando tantissime domande, molte curiosità. Per esempio, ce n'è una che dicevo: come si fa a fermare un inquilino che fa fare la pipì ai propri cagnolini in cantina e sul percorso per raggiungere il garage? Beh, la mia vicina dà una multa, ecco, gli si spiega che il cane a volte queste sono banalità, però questo è un impegno della persona. La persona, e allora quello che si diceva prima, io ho lottato molto perché fino a qualche anno fa ho vissuto in pieno centro a Milano con 3 cani, sì, di grossa taglia, e quindi potete immaginare le polemiche con i condomini, per quanto alcuni di essi si siano accorti che io avevo i cani circa 2-3-4 mesi dopo che fossi andato ad abitare, quando sono andato ad abitare in quella casa, per cui per capire quanto disturbavano. Però il concetto è che io non devo essere limitato nella mia libertà personale, quindi nel vivere con degli animali che sono considerati d'affezione, ma io stesso non devo limitare la libertà altrui avendo o vivendo con dei cani che non sono in grado di stare in società. E quindi, per esempio, è mio compito asciugargli le zampe se fuori ha piovuto e devo rientrare nel portone. È mio compito evitare che mentre esco, magari, ecco, facendo il giro delle cantine, si faccia pipì. O banalmente raccogliere, raccogliere quello che succede sui marciapiedi, esatto, quando invece, esatto, ancora non... Devo dire che stanno aumentando le persone che lo fanno, ma non è ancora al 100%, purtroppo. Che aumenta. Meno male. Io dico sempre che quando vedo poi la persona col sacchetto arrotolato, con un nodo strettissimo al guinzaglio, dico: voglio vedere se poi quel nodo verrà sciolto nel momento del bisogno. Per cui adesso va molto di moda saccarsi il sacchettino al guinzaglio, spero che poi quel sacchettino venga anche usato e non utilizzato. Ecco Simone, l'ultima domanda che vorrei farti, abbiamo un minuto, sì, esatto di tempo, è questa: sì, indicativamente un percorso educativo per il proprio cane più o meno quanto costa? Quant'è l'esborso? Allora, purtroppo parto con un'osservazione: in Italia la mia professione non è normata sotto nessun punto, sì, di vista, né dal punto di vista della formazione, e quindi attenzione a dove, a chi sì, non sappiamo in mano a chi capitiamo, insomma. Ecco. Esatto, cioè, e di conseguenza non è normata neanche dal punto di vista professionale, assicurativo o del tarifario, mettiamola così. Quindi sì, chiunque può fare il proprio prezzo. C'è gente che conosco, ahimè, che chiede 100-150 euro all'ora, e c'è gente che invece uccide il mercato e la concorrenza chiedendone 20. Quindi siamo in una via di mezzo, per capirci. La via di mezzo è quella giusta. E ricordatevi che, per quanto possa sembrare tanto spendere 40-50 euro all'ora, però quell'ora lì non è l'ora, adesso non voglio entrare in conflitto con l'idraulico o col meccanico, però non è l'ora, quell'ora lì dovete immaginarla suddivisa per tutti i restanti giorni della vita che trascorrerete col vostro cane. Grazie Simone Della Valle, devo salutarti, cercatelo su Facebook e su internet. Il riposo del guerriero. 11:08 minuti, continua il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini qui su Radio 24. Oggi si parla di animali domestici, normalmente cani e gatti, ma non soltanto. Qualcuno mi sta facendo osservare: ma non ci sono soltanto cani e gatti, infatti poi avremo una pagina anche dedicata agli animali un po' meno comuni e vedremo quali sono e cosa bisogna fare quando si tengono in casa animali diversi. Adesso sono i conigli da compagnia, per esempio, che a quanto pare, siccome sono piccoli e molti stanno acquistando, io ho sempre dei dubbi su queste manie, sinceramente. Comunque, Massimo Perla, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Allora, prima il Clemente Mimum, direttore del TG5, e poi appunto vi ho detto che alle 11:20, alle 12:20 oggi comincerà questa prima puntata di un TG dedicato agli animali, e ti aveva proprio citato Massimo Perla perché è sei considerato sicuramente il più grande addestratore di cani per il cinema, e abbiamo visto tanti degli animali che tu in qualche modo hai educato recitare davanti alla macchina da presa. Hai appena pubblicato un libro, sentito da Io sto con i cani, storie, segreti e consigli del più grande addestratore di cani per il cinema. Allora Massimo, hai sentito anche prima gli interventi che ci sono stati, continuano ad arrivare messaggi. Innanzitutto ti faccio una domanda: quando si educa un cane per il cinema bisogna fargli fare delle azioni, no? Si ha sempre l'impressione che la gente che non conosce come funziona il metodo, i cani possano essere trattati male. Ecco, che non è assolutamente così, immagino. Come funziona? Se si vuole ridurre tutto a questo, per non so quale sia il motivo, penso che sia più un'approssimazione detta così. Io credo che dietro al lavoro del cane nel cinema c'è invece tanta passione, tanto tempo, tanta esperienza, tanta voglia, e soprattutto il cane non fa nient'altro che fare delle cose che fa durante la giornata. Il problema è che poi le dovrà fare quando si impressiona la pellicola. Quindi ci sono anche la faccia triste di un cane fatta con un rinforzo positivo, con il gioco o con un premio, con un bocconcino, qualsiasi delle espressioni o delle cose che può fare il cane, che deve fare il cane, sono fatte esclusivamente insegnandole a loro con un metodo positivo e tranquillizzante, anche perché voi dovete pensare che su un set ci sono più di 50-100 persone a seconda dell'importanza del film, che si muovono tutti come cavallette, fino a che a un certo punto c'è la frase fatidica che dice motore, e in quel momento cambia completamente tutto. Prima sentivo che parlavate di fuochi d'artificio. Sì, sì. Ecco, questa è un po' una cosa al contrario: da tanto rumore c'è un silenzio assordante, per cui i cani devono essere abituati a questi cambi di situazione, devono essere cani sereni, equilibrati, abituati a vivere in qualsiasi situazione. Io e i miei cani, soprattutto quando sono cuccioli, perché quelli che fanno il cinema con me nascono appena, a meno che non debbano fare una comparsata, ma nascono proprio essendo costruiti, diciamo, usiamo questa parola, per affrontare qualsiasi cosa senza stress, ma divertendosi. Quindi andranno in bicicletta, in motorino, in moto, in macchina, in treno, in aereo, perché devono essere abituati a tutto questo. E sapete che quando un cane è giovane tutte le informazioni che vengono date sono informazioni della stessa, non c'è un'informazione che possa mettere paura, a meno che non sia presentata male. Quindi questo è il lavoro nostro, abituare il cane a tutte quelle situazioni. Poi ci sono dei trucchetti, degli insegnamenti, dei giochi, delle espressioni, delle facce che il cane fa, ma sempre insegnate con un metodo positivo. Ecco, esatto, la questione è che in realtà il cane si diverte sempre in quelle situazioni. Ecco. Per forza, se no il cane è come un cane che fa un percorso di agility. Voi lo vedete un cane che può essere trattato male, bastonato, qualcuno dice, per fargli fare i paletti. No, il cane li fa perché gli sono stati insegnati sotto forma di gioco, e ci mette tutto se stesso per compiacere il conduttore, affinché sia un binomio, si capiscono, c'è una complicità. E purtroppo questo non sempre viene capito, ma si pensa a delle cose, chissà quali torture per il infatti quello è il pregiudizio che c'è sempre quando si ha a che fare con gli animali, sì, no? Ma non ecco, so perché noi purtroppo immagina, è così, a noi istruttori ci immagino, non me ne voglia dare stogni, però a noi ci immaginano ancora un po' con una vecchia concezione, quella della sedia e della frusta. Ma non è così, ecco. Insomma, queste sono cose di 30 anni fa. È la vecchia iconografia ormai. Sì, no? Diciamo, ecco. Io nasco come istruttore 30-40 anni fa, anche 38 anni fa per esattezza. E chiaramente i metodi di 38 anni fa sono completamente cambiati. L'evoluzione dell'educazione del cane si è completamente sconvolto tutto. Ma pensiamo che 40 anni fa non c'era un libro che parlava di psicologia canina. Credo che il primo libro che sia uscito sia di William Campbell nel lontano 85-84, che era un testo universitario che neanche tutti avevamo, perché poi invece sono cominciati gli studi, la comunità scientifica si è addentrata in questo percorso e ci ha dato una mano a capire determinate cose. Io credo che la più grande capacità di un istruttore, di un educatore, sia quello di rinnovarsi sempre, di aggiornarsi, di capire dove vanno, però anche rimanere con i piedi per terra, perché sennò poi si esagera anche dalla parte opposta. Massimo, c'è un comportamento che trovi spesso sbagliato? C'è un comportamento comune che spesso i proprietari di cani hanno nei confronti? interpretazione dal punto di vista del comportamento del cane con una logica umana. Questo è lo sbaglio che più frequente riscontro. Questo lo diceva anche Simone prima, ecco. Certo, ma su quasi tutto siamo tutti d'accordo con quello che ho sentito, almeno per quello che ho sentito con Simone. Mi sentivo un po' parlare me quando parlo con i clienti. Cioè, noi siamo un po' demissionari in questo senso, perché è difficile e continua e cerca di capire che ogni giorno noi facciamo questa cosa con tanti proprietari di cani, quindi per noi è proprio, cioè alla fine oltre che la pazienza c'è anche ma informatevi. Io credo che ecco le iniziative come quelle di Simone, come quelle anche di altre persone che fanno televisione, vediamo adesso come andrà il TG Baudi di Mimun, che insomma ha avuto la sensibilità di capire che bisogna dare informazioni. Lo so che sembra ridicolo e lo so che magari in questi momenti dove ci sono anche altri problemi può sembrare superfluo parlarne, però la cultura cinofila, io mi occupo di quella, quindi spingo quella. Sì. È chiaro che poi la solidarietà nei confronti di tutti, dei cani dell'Ucraina, dei cani dell'Azerbaigian, dei cani dei terremotati, insomma ci sono tante altre situazioni, gli stessi terremotati, voglio dire, però il nostro problema è che noi ci occupiamo di cani, quindi di quello parliamo, lasciamo agli altri i compiti più complicati, perché se no ogni tanto veniamo tacciati, a voi parlare dei cani, ci sono i bambini che muoiono di fame, ma ho capito, io non mi occupo dei bambini, mi occupo dei miei figli, sì, quello sì, ma degli altri bambini me ne occupo in una certa maniera. Quello dovrebbe essere le istituzioni, cioè, tutti preoccupi del cane che sta male, eh sì, anche di quello, perché una civiltà, un paese civile si dimostra anche da quello. Ecco, il fatto è che ho l'impressione, no, questa è la mia, magari mi sbaglio, che comunque mandare un cane dall'educatore ancora non lo si faccia, perché non lo si ritenga utile. Ma no? Il cane, ecco, non ci dovrebbe andare dall'educatore, ci dovrebbe andare il proprietario dall'educatore. siamo lì, perché un cane educato si fa, è la conseguenza di un padrone educato. Noi ci stiamo occupando anche come Xen di proporre dei piani come il PCL, che è il proprietario cinofilo responsabile, affinché sia il proprietario che il cane facciano un esame, un piccolo esame, che il proprietario che conosca quei principi da un punto di vista sanitario per il suo cane, dal punto di vista educativo del suo cane, e lo stesso il cane deve fare un piccolo esame affinché esso non crei problemi alla società, nel senso che quando Simone diceva vedo il cane al parco che parte di corsa dalla macchina e mette paura a un bambino, quello per me è un fatto gravissimo, perché io a quel bambino gli ho vietato la gioia di avere un cane o vedere il cane come un suo amico. Quando un cane abbaia al guinzaglio tira e vedete i bambini che hanno paura, quello per me è quasi un delitto, perché quel bambino nascerà o continuerà ad avere la paura del cane. Ma lì sono i genitori che con sposto di togliere. Anche i genitori, perché quando io sono nato e cresciuto con sto attento e ti faccio mangiare dal lupo. Sì. Cioè non mi ricordo che si sentiva in giro per strada le mamme che dicevano questo ai bambini. Questo almeno male, per fortuna succede meno, però succede ancora. Bisogna dare cultura cinofila, bisogna far capire cos'è sensato e cos'è superfluo. Al cane non, io non credo di volere più bene al cane se gli faccio la cuccia a mo' di partenone o gli fa compro il cibo. Io voglio bene al cane se gli do l'essenziale, cioè quello che lui ha bisogno veramente. Certo. Una vita psicomotoria adeguata, il mio affetto, l'affetto della famiglia, un branco, diciamo, che è quello che sì, è rappresentato dalla bisogno, famiglia, sì. Le regole, e all'interno di questo branco il cane deve rappresentare la prima figura dopo l'ultimo degli umani in scala gerarchica, perché avendo anche dei figli io penso che nessuno debba insegnare, sottovalutare determinati comportamenti che vuoi per sbagli, vuoi per incoerenza, vuoi per non costanza possono verificarsi, e sappiamo che un cane intorno ai 2 anni, ai 2 anni e mezzo cambia atteggiamento quando raggiunge la maturità sessuale. Se gli sono state concesse determinate cose prima, possono ritorcersi contro. Ecco, per cui bisogna veramente conoscere, non c'è niente da fare. Noi, e in invece, questo ci potete aiutare voi, che fate televisione, radio. Questo, ecco, una puntata del Guerriero dedicata a questo, per quello che io posso, eccomi qua, appunto per cercare di spiegare, di capire. Ecco, ma sono molto felice che tu lo sia. Massimo, io sto con i cani, storie, segreti e consigli del più grande estatore di cani per il cinema, ma non solo questo, anche per capire cosa possiamo fare per il nostro nostro amico a quattro zampe. Grazie davvero Massimo Perla, buona domenica. Grazie a voi, un saluto a tutti. Sei stato illuminante, è vero, anche i padroni vanno educati, sono d'accordo. 11:18, un po' in ritardo, gli aggiornamenti sul traffico e poi cambiamo animali. Strade in diretta. Buongiorno, sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo code in direzione Salerno per un incidente in galleria tra Nocera Pagani e Castelle San Giorgio. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in uscita dall'Italia, lunghe code tra Bolzano Sud e Vipiteno per il traffico intenso. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Traffico intenso e rallentato anche sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo tra Palermo e Carini verso Mazzara. Spostamenti intensi anche sulla tangenziale di Catania. Si rallenta tra Gravina di Catania e Catania Centro in direzione Messina. A Roma segnaliamo difficoltà sulla via Aurelia tra la circonvallazione settentrionale e Roma via Ildebrando della Giovanna in uscita dalla capitale a causa di una manifestazione con delle code poi in uscita da Roma per il traffico intenso sulla 12 Roma Civitavecchia tra la Roma Fiumicino e Roma Ovest in direzione dell'Aurelia. Altre code sulla A12 in uscita a Fregene sempre per il traffico intenso. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Vorrei che l'insofferenza che molti hanno nei confronti dei cani e dei loro padroni si trasferisse anche su chi sporca le nostre strade con cartacce, lattine, bottiglie, resti di cibo e porcherie varie. Di questa forma di grande inciviltà non si parla mai, non è vero, se ne parla e come, ed è anche quella una forma di inciviltà, vale tanto quella di chi non raccoglie gli escrementi dei cani che vengono lasciati sui marciapiedi, vale esattamente nello stesso modo. Nicoletta Magno, buona domenica. Buongiorno. Nicoletta Magno ha scritto un libro, si intitola Il linguaggio del gatto, conoscerlo, capirlo e interpretarlo, perché anche i gatti hanno un comportamento, non dico che vengano dimenticati, ma di solito si associa subito il cane, giusto? È il miglior amico dell'uomo, però ci sono anche i gatti, non soltanto. Nicoletta, da dove cominciamo? Come facciamo a interpretare il linguaggio del gatto? È simile a quello del cane o completamente diverso? Ma io direi che come in tutte le relazioni è fondamentale, perché la relazione abbia un esito positivo, conoscere e rispettare il nostro interlocutore. Quindi sicuramente il gatto è un animale decisamente diverso rispetto al cane. Allora, dobbiamo tenere presente innanzitutto che cos'è in natura il gatto. È un formidabile predatore. Sì. Quindi è chiamato addirittura lo squalo dei giardini, perché tutti abbiamo esperienza del gatto che cattura la lucertola, l'uccellino, con grandissima abilità. Però nello stesso tempo, essendo un animale di piccole dimensioni, è a sua volta una potenziale preda. Quindi, mentre di fronte ai cani abbiamo una gamma di taglie enorme, sì, il gatto fondamentalmente ha un tipo di dimensione omogenea e dobbiamo sempre tenere presente cosa siamo noi rispetto a lui. Siamo delle montagne, siamo dei giganti enormi, quindi il nostro approccio nei suoi confronti deve essere quello di considerazione anche di questa disparità di dimensioni. Sto parlando di un rapporto con un gatto, diciamo, sconosciuto, un gatto che incontriamo per caso. Sì. Il rapporto con il nostro gatto chiaramente poi si modula in modo diverso, perché c'è anche la possibilità di avere molto più tempo a disposizione. Infatti normalmente cosa accade quando incontriamo un gatto che non conosciamo? Che il gatto scappa di solito. Infatti è esperienza comune, ad esempio, in un contesto, non so, un gruppo di persone, immaginiamo siamo in una casa, in un salotto, arriva un gatto, entra un gatto, che può essere un gatto che entra per caso o anche il gatto di casa. Da chi andrà questo gatto? Paradossalmente andrà, si avvicinerà alle persone che meno amano i gatti. Perché? Perché immediatamente alla presenza del gatto gli amatori del genere si lanciano verso il gatto, carino, bellino, con tutta una serie di vocalizzi. Sì, certo, sono coppio. Si protendono verso di lui, sicuramente il gatto fuggirà da queste persone e invece si avvicinerà da chi c'è sempre in un gruppo di persone, chi non ama i gatti. Sì, o chi non, così, indifferente. Esatto, mostra indifferenza, sì. E il gatto si avvicinerà a queste persone. Perché? Perché sono le persone che hanno un atteggiamento più neutro. Quindi dal punto di vista dell'ottica del gatto, della, sì, sua mentalità, sono le meno pericolose e quindi è c'è una probabilità del 98% che il gatto si avvicini e magari dimostri un atteggiamento di interesse, e magari anche amichevole, verso magari proprio queste persone che per lui di interesse non ne hanno. Ecco, nessuno. Nicoletta, un esempio, volevo chiederti una cosa. Ovviamente il cane di solito segue un branco, no? Quindi ha bisogno di un capo branco e quindi funziona così un po' il meccanismo anche il comportamentale. Il gatto invece come si comporta? Ha bisogno di un capo branco, invece veramente come si pensa, vive tranquillamente da solo, non ha bisogno di questa figura? Sì, infatti è molto interessante questa differenza, perché così come il cane, appunto come è stato giustamente detto, è un animale da branco, sì, e quindi ha bisogno di un capobranco canino o, nel caso del rapporto con gli umani, di un padrone che faccia le funzioni del capobranco, sì, quindi un rapporto di dominazione. Il gatto ha un approccio completamente diverso. Allora, il gatto, la sua origine antica, è un cacciatore solitario. In qualche modo gli rimane questo tipo di indole, anche se poi con la domesticazione che è durata millenni si è in qualche modo trasformato suo malgrado ed è diventato un animale sociale, anche se comunque la sua natura sarebbe quella di essere un solitario. Quindi il rapporto non è mai un rapporto da capobranco a branco, quindi non è mai un rapporto, nel caso del rapporto con noi umani, da padrone a animale soggetto, in qualche modo asservito, sì, al padrone, ma diciamo che se va bene il rapporto è paritario, da pari a pari. Quasi sempre, dal momento che c'è una scelta anche da parte nostra, del nostro animale d'affezione, le persone che si rivolgono al gatto sono persone che, più che un codice di tipo paterno, quindi un codice di dominazione, prediligono un codice di relazione di tipo materno, quindi affettuoso, sensuale, giocoso, amichevole, anche perché chiunque abbia un gatto sa perfettamente che non è possibile far fare a un gatto qualcosa contro la sua volontà, mentre immagino sia sempre possibile imporre la propria volontà a un cane e farsi obbedire. Ecco, questo non lo so, però potrebbe essere, visto appunto il rapporto con il capo branco, no? Se noi riusciamo a rappresentare questo. Nicoletta, volevo farti l'ultima domanda, perché oggi se no saltano tantissimi ospiti, perché avevo molte cose da raccontare e da ascoltare. Volevo chiederti questo: noi osserviamo spesso la coda di un cane, da quella noi capiamo molte cose, no? Ah, guarda, scodinzola, quindi è felice. Questo è molto banale, lo so, ma lo si dice sempre. Anche i gatti con la coda comunicano o hanno un modo completamente diverso di fare? Assolutamente sì, anzi spesso il gatto riesce a essere, dal punto di vista dell'espressione facciale, indifferente, inespressivo. Io dico, il gatto fa l'inglese, ci riesce molto bene. Quello che non riesce a nascondere è il linguaggio della sua coda, del quindi corpo, spesso, ecco, proprio come dalla noi. Coda, sì, noi possiamo capire che cosa ci dobbiamo aspettare da un gatto. Ad esempio, il paragone che è stato fatto prima, il cane che scodinzola è un cane che si dimostra amichevole, desideroso di un contatto con noi. Lo stesso movimento della coda, quindi un movimento orizzontale da destra a sinistra, che in un cane appunto è segno di amichevolezza, in un gatto va assolutamente interpretato come: attenzione, state in guardia, mi state scocciando, sono molto nervoso ed è molto probabile che io attacchi. Quindi è proprio assolutamente esattamente il contrario, quindi bisogna saperli riconoscere anche. Assolutamente sì. Ecco, quando un cane è felice invece di vederci, come si comporta con la coda, col corpo? Quando un gatto, immagino. Un gatto, scusami, sì, perdonami, un gatto. Allora, il gatto felice è il gatto che ci viene incontro trotterellando, con le orecchie bene diritte sul capo e la coda alta a bandiera, ferma. Allora, questo è un gatto che ci viene incontro e ci sta dicendo: sono molto contento di vederti. Ecco, il contrario di un cane, che quando invece ha la coda in alto a bandiera vuol dire che è irritato, mi sembra. Sì, e questo è il problema della torre di Babele, della differenza tra i linguaggi. È molto importante conoscere i linguaggi per evitare dei terribili fraintendimenti. Infatti, sento. Per cui è importante veramente conoscerlo. Allora, purtroppo, Nicoletta, non ho più tempo, se no mi saltano tutti gli altri ospiti, anche se è molto interessante quello che stai raccontando. Io rimando al tuo libro, il linguaggio del gatto, conoscerlo, capirlo e soprattutto, come abbiamo visto, interpretarlo. Grazie Nicoletta. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, siamo veramente in ritardo e sono i provvisioni del tempo, ho ancora degli altri ospiti, io ruberò qualche minuto al gioco, al mistero in 24 minuti, sicuramente ruberò qualche minuto e adesso le provvisioni del tempo e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Tra poco ci sarà il mistero in 24 minuti, vi ricordo il numero 800240024, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o elettronici, però volevo chiudere la puntata dedicata agli animali domestici o meno domestici citando anche gli altri animali, perché abbiamo parlato di cani e soprattutto poi i gatti, ma ci sono anche giustamente gli altri animali. Paolo Selleri, buona domenica. Buongiorno a voi. Allora, Paolo Selleri è presidente senior della SIVAE, la Società Italiana Veterinari Animali Esotici, perché ci sono anche questi, gli animali esotici, gli animali diversi dai cani e ai gatti che possiamo avere nelle nostre case. E, Paolo, innanzitutto quali sono quelli più comuni tra... Diciamo che sono i più numerosi, sono molto più numerosi. Addirittura, di cani e gatti. Ecco, sì. Quindi i più numerosi, quelli che, di cui ci occupiamo noi, sono sicuramente i conigli, che sono tra gli animali non convenzionali, ma ci sono anche moltissimi uccelli, quindi pappagalli, canarini, ma anche rettili, tantissime tartarughe. E anche serpenti, lucertole. Allora, io avrei milioni di domande da farti, esatto. Mi sa che dovremmo fare un'altra puntata sugli animali, lo dico perché sono saltati molti ospiti, volevo parlare di pet therapy, volevo parlare di rapporto proprio con gli animali e cercheremo di farlo, ma allora, chiedendo a te, io comincerei dai furetti. Sì. Perché questa moda dei furetti? Allora, è una moda che veramente forse sta anche un po' passando. Ecco, la moda. In realtà gli animali, l'uomo li vede spesso, anche quelle persone che pensano di amarli spesso li vedono come mode, nel senso che rimangono attratti dagli animali perché sono cose che li vedono come... Sì, è un furetto, che cosa vuoi, piccolino, me lo tengo in borsetta, no? Ecco, questo è un po'. Però è un animale invece, non è... Esatto, allora, innanzitutto l'animale va rispettato. Esatto. Il furetto è un animale domestico, importante da dire, non è un selvatico, ecco, sì. Rispetto ad altri animali, come ad esempio possiamo fare l'esempio di un pappagallo, di un falco, sono più da considerare animali selvatici. Il furetto, forse tra tutti quelli di cui potremmo parlare, è forse quello più abituato a noi, perché è stato domesticato veramente migliaia di anni fa, sostituiva il cane, il gatto nelle case perché cacciava i topi, poi il gatto l'ha un po' rimpiazzato perché puzza molto di meno. Però ecco, sono degli animali molto affezionati alle persone, ci sembrano molto particolari, ma in realtà siamo noi che non li conosciamo. In realtà chi ha un furetto sa benissimo che non ha niente di diverso rispetto a un gatto, anzi c'è una interazione molto maggiore. Ecco, sentivo l'ospite di prima che parlava di interazione del gatto, il furetto interagisce tantissimo col proprietario, affezionatissimo, si lega tantissimo, il proprietario ricambia. Ecco, vedi il mio pregiudizio, no? Ecco, non so, forse è un animale che non, ma forse perché lo vedo più come moda e non come vero amore verso un animale, ma questo è un mio pregiudizio, lo ammetto, è un mio limite, sicuramente è così. I conigli da compagnia che anche stanno, ecco, diciamo che la moda si è spostata un po' sul coniglio da compagnia, no? Ma allora, sì. C'è da dire questo, che le persone spesso si avvicinano agli animali pensando che il cane sia impegnativo e il coniglio lo sia meno, in realtà non è così. In realtà dovete sapere che un maiale, no, di cui che noi scegliamo come pasto spesso, è un animale fantastico, con un'intelligenza incredibile e può essere un ottimo animale da compagnia. E il coniglio anche, che molti ancora mangiano, è invece un altro animale incredibile, che ci sono veramente milioni ormai di italiani che hanno il coniglio nelle case e sanno benissimo che questo animale, che ha un'aspettativa di vita di 10 anni, per 10 anni ricambierà affetto, interagirà con noi. È un animale assolutamente da rispettare e non da usare solamente appunto come cibo o come cavia nelle sperimentazioni. In realtà penso che il messaggio di questi nuovi animali da compagnia sia che l'uomo deve imparare a rispettare gli animali tutti e la natura tutta. E questi animali così insoliti, che adesso ci stanno insegnando che anche loro hanno un'anima e possono interagire con noi, ci insegnano che dobbiamo rispettare l'ambiente e la natura tutta. Ecco, fondamentalmente, poi era il discorso che si faceva anche con i cani prima, no? Alla fine siamo è un'integrazione che bisogna imparare a conoscere, e quindi non trattare esattamente in questo caso gli animali come qualcosa, tanto appunto come dicevi non è impegnativo, in realtà vanno assolutamente rispettati e conosciuti, e bisogna partire da lì, altrimenti sì, non si va da nessuna parte. Qual è l'animale... qual è l'animale che invece tu sconsiglieresti assolutamente di tenere in un appartamento, che invece magari qualcuno tiene? È inevitabile che cioè molti animali hanno bisogno di spazio e tempo. La cosa di cui hanno più bisogno veramente è il tempo, che per noi è in realtà la cosa che ci costa di più. Sì. Io non riesco a trovare un animale, ma riesco sicuramente a dire alle persone che non hanno competenza di non prendere animali, perché poi non è nemmeno più un piacere per loro. Non sarà un piacere se non li hanno imparati, non hanno imparato a conoscerli prima, se non ne conoscono le qualunque animale è un impegno, questo qualunque, è anche il criceto, ecco. Anche il criceto si ammala, deve essere operato, ha bisogno di una gabbia grande. Il criceto è un animale che ci sembra banale, che non merita rispetto, in realtà è un animale simpaticissimo, che si muove per chilometri ogni giorno, quindi ha bisogno di una ruota o di una gabbia enorme, quindi ogni animale è un grande impegno. Prima di decidere, cioè non fate scegliere i figli quale animale prendere, sceglietelo razionalmente dopo aver chiesto magari a un veterinario specializzato quali sono le nostre abitudini. E spesso magari anche non prendere un animale può essere una decisione saggia, una decisione che porta rispetto verso questi animali, verso noi stessi, la nostra famiglia. Concordo assolutamente con te. Paolo, ti lascio con l'ultimissima domanda: quando prendiamo le tartarughine d'acqua, quelle piccoline, non ci rendiamo conto che poi con il tempo diventano molto grandi, esatto. Ecco, dove al posto di buttarle nel laghetto al Parco Sempione a Milano o in qualunque altra parte, adesso io conosco qui perché sono di Milano, e quindi andando a cambiare tutto l'ecosistema del laghetto, che cosa possiamo fare per liberarcene, perché così grande non possiamo tenerla più? Questa domanda mi viene fatta ogni giorno, ecco, è veramente vedi. Un problema serio, perché non c'è una scorciatoia, ci vengono proposte spesso delle soluzioni, le diamo a questa, a quell'altro, ma spesso mi è capitato di vedere che alcune associazioni che dicono ci pensiamo noi ad adattarle, poi le rimettono nel circolo della vendita, quindi state attenti. E il problema è che se ti sei preso una tartaruga, io dico, caro mio, te ne prendi la responsabilità e la devi rispettare. Ecco, diciamolo, quindi la tartaruga piccola diventa... Esatto, è un reato, diventa grande, lo dobbiamo dire, da piccola diventa grande. Non vanno prese, quelle tartarughe costano 2 euro, in realtà sono animali che diventeranno grandi e sono animali che sono simpaticissimi. Quindi però se non avete in mente di dedicargli l'impegno, un grande acquario, se avete un problema... Io non riesco a darvi una soluzione perché sarebbe un po' una presa in giro. Ma sei stato molto preciso, hai detto una cosa molto vera e saggia, e quindi bisogna saperla ascoltare. Grazie Paolo Selleri, grazie per l'associazione, perché è sicuramente dato una mano. Vi ricordo il sito anche sivae.it per avere anche le informazioni su chi rappresenta l'associazione e dove potete affidarvi, a chi potete chiedere se avete problemi di questo genere. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Allora, prima di passare a Davide Paolini e poi al gioco, volevo citarvi i premi che sono stati dati dal sito vacanzeaquattrozampe.info, quindi il sito è questo, vacanzeaquattrozampe.info, perché ieri sono stati dati i premi accoglienza a 5 stelle, quindi sono stati dati i premi a alberghi, ristoranti e spiagge, campeggi anche, che danno la possibilità di un trattamento particolare per i nostri compagni appunto a quattro zampe. Siccome quando si va in vacanza bisogna sempre cercare un posto che prenda con noi anche il nostro cane o gatto che sia, o anche quando andiamo semplicemente al ristorante a mangiare, è giusto avere indicazione di dove poter andare. Quindi per avere tutte le informazioni, vacanzeaquattrozampe.info. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta il gastronauta. Ciao Davide, scusa il ritardo, ma oggi lo siamo. È un argomento molto ampio, quello degli animali, che qualche volta si portano anche al ristorante, appunto per quelli che lo permettono. Guarda, tu hai toccato un tasto interessante, perché quest'anno nella mia guida, che uscirà alla fine dell'anno, la guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, stiamo proprio pensando di mettere, siccome abbiamo dei simboli, noi cioè, su quella guida non diamo voti, ma mettiamo dei simboli caratterizzanti un locale, e quest'anno stiamo pensando di mettere il simbolo di chi accetta cani o gatti, ma non certamente maiali o cavalli, insomma. È un po' più impegnativo. Sono un po' più impegnativi, quindi sicuramente per cani e gatti, però devo dire che ho molta difficoltà, nel senso che quando chiediamo, molte volte ho visto che non c'è risposta, né sì né no, quasi che ci fosse, come posso dire, un imbarazzo nel rispondere. Comunque, se non riusciremo ad averne un bel numero quest'anno, sicuramente stiamo lavorando per il prossimo anno per poterlo avere. Ma credo che lo troverai, perché comunque sempre più a ristoranti, e tu non ti occupi di alberghi, comunque alberghi appunto stanno così accettando e trovando anche il sistema per accudirli al meglio e tenerli al meglio anche. Sì, mentre... no, io mi limiterò ai ristoranti, perché questa è la guida dei ristoranti, sì, comunque cercheremo di farlo, perché sicuramente è un servizio che si dà sia al ristorante, al cliente, cioè quello che vuole andare al ristorante, e quindi devo dire che è abbastanza importante, come diciamo, se sono locali che c'è perfumatori e non perfumatori, quindi anche questo sì, è una cosa completamente diversa, però molti lo chiedono e molti rimangono così, vanno in un ristorante pensando di trovare un luogo perfumatori, poi in realtà non lo trovi. Premetto che io sono contrario a questo, molto contrario, però anche questo secondo me è un fatto di utilità, cioè un fatto di servizio. Volevo dire solo una cosa. Sì, io un minuto ti do. Sì, la trasmissione sugli animali. Sì. Che io sono sempre in giro, per cui sarebbe, come posso dire, fare un male servizio prendermi un animale in casa. E credo che questo sia un fatto importante, che cioè bisogna prendere un animale quando si sa che si può anche accudire. E soprattutto mettere certi animali in un appartamento, io credo che gli si soffochi un po' la vita. Quindi credo che queste due limitazioni siano importanti da tenere. Paolo presente. Selleri prima è stato chiarissimo su questo, credo, no? Poco prima di te, proprio. E come dicevo, a me molte volte mi chiedono, ma come, no, un cane, un gatto? Dico no, perché io non ci sono. Cioè, se sto via 5 giorni, chi è che mi porta fuori, o chi mi dà da mangiare o d'altro? Quindi credo che quando uno sa di non poterlo fare, non è che sia contrario. Non è che sono contrario, no, però non lo posso fare. Infatti diceva, è una scelta che amare gli animali significa anche sapere di non poterli tenere, così diceva Paolo Selleri prima, io sono assolutamente d'accordo. Poi si parla di animali di compagnia, ho sentito il maiale, io conosco abbastanza bene i maiali anche per altre motivazioni, insomma. Comunque, sì. No, diciamo che da piccolo ho avuto molto a che fare con i maiali, perché mio nonno aveva un salumificio, quindi sicuramente l'ho conosciuto. Attenzione, perché cioè, i maiali da tenere così familiarmente, se uno non vive in campagna non vive con grandi spazi, il problema è molto ma molto duro, anche se sicuramente mi rifaccio ad Orwell, alla fattoria degli animali. Il maiale è sicuramente un animale di grandissima intelligenza, però devo dire che è un animale da compagnia, ho qualche dubbio. Però era un po' un paradosso che se li diceva prima. Certo che però gli animali, i maiali che avevi tu, sapendo la fine che avrebbero fatto, ovviamente non potevano essere di molta compagnia. Ciao Davide. Ciao, buona domenica. Ciao. Aggiornamenti sul traffico e poi partiamo con il mistero in 14 minuti a questo punto. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro per voi da spendere in libri digitali oppure cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Può trattarsi di delle notizie della settimana oppure di un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. Il numero per partecipare è 800 24 00 24, ed ecco il primo indizio. Non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Per tutto, per sempre, non dei ribelli di molti anni fa con pugni chiusi, Roberto da Parma. Buona domenica, ciao Roberto. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, pugni chiusi, questo è il primo indizio, siamo a 1000 euro, che cosa vuoi fare? Posso chiedere un'altra aiuto? Come no, certo, scendiamo a 500 euro. Questo è il secondo indizio, siamo a 500 euro. Roberto, credo che tu abbia riconosciuto sicuramente Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Questo indizio mi ha un po' messo fuori strada, però poi avrei la risposta. Vai Roberto. Dico Monti che non riesce a governare per l'ostilità dei poteri forti. Grazie Roberto, buona domenica, sarebbero 500 euro, ciao, buona giornata. Lorenza da Milano. Buongiorno. Ciao Lorenza, buongiorno. Due indizi li abbiamo già scovati. Cosa vuoi fare? Ma guarda, io do la risposta soprattutto in base al primo indizio, perché sì, questo secondo come sempre mi ha fuorviato. Non doveva però, non avrebbe dovuto farlo, ma dimmi Lorenzo. Vabbè, però comunque io ho pensato alla Grecia, in particolare alla rissa che c'è stata in televisione, sì, da parte del portavoce di Alba d'Oro, penso che si pronunci Kasiriadis, dici... che ha preso a pugni appunto due altre persone, due donne che erano con lui alla trasmissione. Grazie Lorenza, buona domenica. Tanta presa. Ecco, sempre alta la tensione a quanto pare. Rocco da Genova, buona giornata, buona domenica. Buona domenica a te Stefano, ciao. Allora Rocco, abbiamo due indizi, 500 euro, che cosa pensi di fare? Guarda... Io avrei risposto come l'ascoltatrice. Vuoi sentire un terzo indizio? Sì, eccolo, sì, là. Sentiamo un terzo. Meglio, 300 Beh. Euro. Grazie. Non parliamo più, a parlare non serve granché. Mangiale anche tu, le castagne arrosto con me. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guarda, c'è un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Dustin Hoffman, Al Pacino, la Dunaway, entriamoci anche lei. C'è un posto, siedi, io resto in piedi. Guarda lei, è proprio come ti vorrei. Guarda lei, lo amo, non si lamenta mai. In fondo la somiglia a me, perché non mi capisci, dimmelo, perché guarda lei, guarda la. Eccolo che questo è un vecchio successo di Lucio Battisti, Al cinema si intitola. Rocco. Chi è che ti sta suggerendo? Guarda che se metti insieme gli indizi adesso è facile la risposta, facile insomma, però sì. Al cinema. Niente Stefano, non mi viene nulla in testa. È scaduto nulla. Anche il tempo, figurati, oggi abbiamo fatto veramente un ridottissimo mistero in 24 minuti. Grazie Rocco, ciao, grazie, buona domenica, ciao, grazie a te. Ciao Stefano, ciao. Allora, dobbiamo già dare la risposta. Eh sì, è finito proprio, è stato un mistero in meno minuti, ma comunque ci proverete la settimana prossima. La risposta è questo: ha chiuso proprio qualche giorno fa l'ultimo blockbuster in Italia. Blockbuster non c'è più, dopo 18 anni ha smesso di esistere e pugni chiusi perché appunto è chiuso, non c'è più niente da fare, ma il cielo è sempre più blu perché è blu il logo e il colore che l'ha sempre rappresentato, era blu al cinema perché si noleggiavano una volta DVD e Blu-ray, adesso ormai con lo streaming a pagamento su internet funzionano le cose, funzionano diversamente e Blockbuster ormai ha chiuso per sempre. Questa è la risposta, mi spiace, niente da fare, ma ci riproveremo la settimana prossima, ovviamente sempre nel riposo del guerriero. Per quanto riguarda Francesca Dragotto, la nostra glottologa, su tuttopoli.com troverete l'intervento che avrebbe dovuto fare oggi sulla questione cani e gatti. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Gian Gabriel Lombardo in assistenza che salutiamo perché poi continuerà il suo percorso di studi, grazie a Carmelo Lauricella in regia e a voi. Noi ci sentiamo ovviamente domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini.